Yeah, questo è Mother per Jovez. Missione compiuta volume 1. Andatevi a recuperare le robe. Torino nel posto. Spacca tutto, bro! La lancetta non si ferma, sembra che il tempo passa più in fretta. Dammi retta, mettiti in testa un obiettivo e progetta. Sai, se non stai a passo con i tempi, nessuno ti aspetta. Ti fai le ossa con un po' di gavetta. Cosa aspetti? Vuoi un esempio? Anni 90, custodi del segreto dentro il tempio. Al di fuori provenienza, mirafiori. È dura l'avventura, senti solo soddisfazioni da quelle casse. Per tenere acceso il fuoco che arde, basta dammi pace. Almeno per un minuto, tanto il tempo passa. Infottato con il ghetto blastaro, ma sì. Spacco la cressidra, colpi di click. Cambia la tua vita con un click sul beat JV, zero prepotenza. Peggio di Albert con la scienza. Peggio di una droga non puoi starne senza. Pensa, usa la coscienza, è solo crisi d'astinenza. Pensa, usa la coscienza, è solo crisi d'astinenza. Usa la coscienza, è solo crisi d'astinenza. L'orgoglio lo consuma, assumo uno strano atteggiamento. Sono colpi di slang sul mento, scusa. Aspetta un momento, non sono un professore ma ti insegno. Non mi confondere con fibre e tradimento. Sono un discepolo, per salvarvi da tutta sta roba ci vorrebbe un miracolo. Attenzione, sei in pericolo, cambia strada e non passare da quel vicolo. Un po' sospetto da giorni, fermo quel veicolo. Non ho tempo per scherzare, tocca imboccarsi le maniche e individuare il nemico, stai a sentire quel che dico. Leggermente paranoico, solo dopo sapremo. Mi alleno nella stanza dello spirito del tempo. Per un livello supremo, la clessidra è il tempo. Dalla mia parte sta scadendo. Nel frattempo cosa stai aspettando il sole? Facciamo fatti e portiamo rispetto. Si chiude il sipario, fine, sono bastate solo le parole. Si chiude il sipario, fine, sono bastate solo le parole. Sono bastate solo le parole. I've spoken, got the flavor.